Thank you. dentro infusa una tetra voce e un suono solo. Calò, calò, nel pranzo solle. chiuso seme nel cuor d'antichi composti ranghi in fango e fuoco ove fendesi il nucleo dell'orbe ordinator parole coglie splendide formore cifre di stelle di fiori nomi Regale suona, poi nulla dentro infuso, muso. Il samo ingegno, mutare sempre.